Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Il 27 ottobre 1972 venne ucciso a Ragusa Giovanni Spampinato, giovane cronista del quotidiano di Palermo, L'Ora. Spampinato stava indagando sul delitto dell'ingegnere Angelo Tumino, avvenuto qualche mese prima, nel quale era implicato Roberto Campria, figlio del presidente del tribunale di Ragusa. Oggi il fratello di Giovanni Spampinato racconta la storia di un delitto le cui circostanze non sono ancora state del tutto chiarite. Era ormai piena estate, faceva caldo, eravamo tutti in vacanza. Sembrava che per ogni cosa si aspettasse il ritorno della frescura. Invece alla fine di luglio a casa nostra arrivò una telefonata per Giovanni. «Chi parla?» chiese la mamma. «Sono Roberto Campria, l'assassino», fu la risposta spavalda. La mamma gli passò Giovanni. Fu il primo contatto diretto. «Ho letto l'articolo del 7 luglio e ho voglia di incontrarla perché», disse in tono cortese a mio fratello, «vorrei chiarire la mia posizione». Giovanni era sorpreso e diffidava delle buone intenzioni di Campria, ma non voleva apparire prevenuto. Prese tempo, si consultò. Il fratello dell'ingegner Tumino lo sconsigliò vivacemente, gli raccomandò anzi di stare alla larga da quel tipo. Ma Giovanni decise di incontrarlo e quando Tumino lo seppe, si preoccupò e si premurò di comunicare il luogo e l'ora dell'incontro alla questura perché disponessero un servizio di protezione. Si incontrarono lunedì 31 luglio pomeriggio davanti al centralissimo bar Mediterraneo, il luogo più frequentato di Ragusa. Il locale era chiuso per riposo settimanale. Salirono sulla 500 di Campria e fecero un lungo giro, cercando un bar tranquillo per mettersi a sedere. Parlarono per mezz'ora, poi ognuno se ne andò per la sua strada. Giovanni ci raggiunse e ci riferì. Campria aveva deciso che dovevano darsi del tu. Aveva fatto un ritratto vittimistico di se stesso. Studente di legge molto indietro con gli esami, insoddisfatto del lavoro al centro di igiene mentale. Era infelice e preoccupato. La fidanzata lo aveva appena lasciato perché si diceva in giro che era implicato nell'uccisione dell'ingegnere. La sua amicizia con l'ingegner Tumino, più anziano di quasi 20 anni, aveva detto, era nata per caso. Era andato da lui a comprare dei mobili antichi per arredare la futura casa nuziale. Aveva aggiunto che secondo lui Tumino era stato ucciso da un Viddanù, un villico, che gli aveva visto tirare fuori dalla tasca un rotolo di banconote, come era solito fare, e voleva rubargli i soldi. Aveva raccontato particolari intimi sull'ingegnere. Un'ernia alla vescica lo aveva reso impotente, per escludere che potesse essere stato ucciso perché correva dietro a una donna. Poi aveva messo in cattiva luce il fratello di Tumino, accusandolo di aver incamerato roba di valore che l'ingegnere gli aveva dato in deposito. Aveva parlato male anche della madre del bambino di Tumino. Disse di avere un alibi e che avrebbe esposto in una conferenza stampa tutti gli elementi che lo avvaloravano. Quel tipo non fece una buona impressione a mio fratello. Era una vittima poco convincente e le sue attestazioni di amicizia trasudavano ipocrisia. «C'è poco da fidarsi di uno così», disse Giovanni, ma andò alla conferenza stampa, che si svolse a casa sua 2 giorni dopo. Vi parteciparono Giovanni e i Perrone. Poi, il 3 agosto, Giovanni scrisse un articolo anodino, senza puntare il dito accusatore, senza assolvere il sospettato. Voleva chiudere quella questione e non scrivere più nulla finché dalle indagini non fossero emerse novità concrete. Eppure, avrebbe avuto di che scrivere, guardando in controluce le affermazioni di Campria in quella conferenza stampa. Campria e mio fratello si rividero una 10 giorni dopo, durante la passeggiata serale al corso. Fu un incontro casuale. Campria fece strani discorsi. Voleva iscriversi al PCI e voleva che Giovanni lo presentasse. Mio fratello si limitò a dargli l'indirizzo del partito. Fu infastidito dal suo atteggiamento che non gli sembrava sincero, soprattutto quando Campria accusò il futuro suocero di voler ritirare l'alibi che gli aveva fornito insieme alla figlia per la sera dell'omicidio Tumino perché voleva rovinarlo. Campria parlò confusamente anche di una pistola di antiquariato che aveva avuto in regalo da una parente della fidanzata e che aveva restituito con i regali. ne parlò come se potesse essere l'arma del delitto. Dopo quell'incontro, Giovanni tornò a casa preoccupato e si confidò con me. Si sentì in dovere di telefonare al mancato suocero di Campria, un noto avvocato che non conosceva personalmente, ma che considerava una persona onesta. Voleva avvertirlo delle insinuazioni sul suo conto. Telefonò a tarda sera. L'avvocato si allarmò, lo pregò di raggiungerlo subito a casa sua. Si fece raccontare ogni cosa e gli assicurò che non aveva nessuna intenzione di ritirare l'alibi. Spiegò che aveva già consegnato la vecchia pistola alla magistratura, che aveva disposto una perizia tempo dopo. Risultò di nessun interesse processuale. Disse che aveva accolto Campria a braccia aperte come futuro genero, in quanto figlio di un magistrato. Solo dopo il delitto Tumino aveva saputo cosa si diceva e cosa aveva scritto l'antimafia sul passato del giudice a Sciacca, e si era accorto della stranezza del ragazzo. Perciò si era deciso ad allontanarlo e aveva convinto la figlia a rompere il fidanzamento e a lasciare Ragusa. Ferragosto impose una pausa. Anche Giovanni prese un periodo di ferie. Fece delle puntate al mare con la sua ragazza. Il resto del tempo lo passò con noi familiari in campagna, a San Michele di Ganzeria, dove ci fu tempo per parlare di tutto. Giovanni mi espose la sua idea sul delitto Tumino. L'ingegnere si era imbarcato in un affare più grosso di lui. Un giro eversivo, un traffico illecito, qualcosa in cui dovevano essere coinvolti ambienti mafiosi. Poi aveva cercato di tirarsi indietro e per questo era stato ucciso. Campria probabilmente diceva la verità quando giurava che non c'entrava con l'omicidio, ma forse era a conoscenza di qualcosa che preoccupava gli assassini. L'analisi di Giovanni, come si vede, non risolveva l'enigma, ma dava un'immagine di insieme. Venerdì 29 settembre Campria tempestò Giovanni di telefonate. Voleva vederlo assolutamente, prometteva importanti rivelazioni. Fissarono un appuntamento per la sera stessa. Giovanni non si fidava e chiese a un amico di accompagnarlo per fare da testimone, ma quello all'ultimo momento non si presentò. Parlarono seduti nell'auto in sosta. Campria aveva l'aria di chi vuole fare una confidenza a un amico. Disse a Giovanni di essere vittima di una congiura della magistratura ragusana che attraverso lui voleva colpire il padre. Alcuni magistrati avevano cercato di tirarlo a tutti i costi dentro il delitto Tumino. Avevano perfino preparato un mandato di cattura per lui. Si erano fermati solo all'ultimo momento per rispetto al padre, ma non volevano colpirlo. E perché, in qualche modo, lui aveva un alibi. Chiese a Giovanni di scrivere tutta la storia sull'ora. Giovanni rispose: «Posso farlo solo se tu metti queste dichiarazioni per iscritto o mi dai un'altra pezza d'appoggio valida». «Ci penserò», disse l'altro. Si lasciarono così. Campria non fece nessuna dichiarazione scritta, ma si fece vivo più volte al telefono nei giorni seguenti per sollecitare la pubblicazione dell'articolo, e Giovanni gli ripeté che ci voleva una dichiarazione scritta. Non si fidava. Era convinto che volesse fargli prendere una cantonata per screditarlo. Giovanni diffidava del giovane Campria. Nel suo intimo era convinto che c'entrasse con il delitto Tumino, che nascondesse qualcosa, ma non aveva elementi di prova. Passarono alcune settimane. Sembrava che Campria avesse lasciato perdere. Invece, lunedì 23 ottobre, all'ora di pranzo, tornò alla carica con una telefonata a casa nostra. Mia madre passò la chiamata a Giovanni. Poi chiese: «Ma insomma, cosa vuole da te?» «Vuole che scriva sul giornale quello che dice lui». Io gli ho detto: «Sì, ma prima tu devi mettere queste cose per iscritto». Comunque aveva accettato di riparlarne di persona con Campria. Avevano fissato un appuntamento per le 15:30. Mamma lo apprese perché alle 16 prese un'altra telefonata di Campria, che si lamentava di non aver trovato Giovanni nel luogo fissato. «Quando Giovanni rientrò», ha ricostruito mamma, «lo informai. Ci rimase male e disse: "Come ho fatto a dimenticarlo? Adesso gli telefono per scusarmi. Non vorrei pensasse che non sono andato perché ho paura di lui". Ma ci furono altri contrattempi e non si incontrarono. La mattina di venerdì 27 ottobre, ha raccontato mia madre, presi un'altra telefonata di Campria. Erano le 9:30. Giovanni aveva mal di testa ed era ancora a letto. Ma andò al telefono lo stesso. Presero appuntamento per le 17. Subito dopo telefonò Emanuela e convinse Giovanni ad accompagnare lei e sua madre a Catania. Giovanni non ci voleva andare. Diceva che aveva quell'appuntamento. Poi si lasciò convincere. Prima di partire chiamò Campria al telefono per avvisarlo che per quell'ora non sarebbe stato di ritorno. Ma non riuscì a trovarlo. In ufficio gli dissero che era in ferie. Chiamò a casa sua e lasciò detto alla madre che sarebbe stato disponibile per l'incontro in tarda serata, al rientro da Catania. Infatti, quella sera, appena rientrato, si incontrarono. Quello si presentò con due pistole e lo uccise. Nessuno sa cosa successe veramente quella notte. Le uniche cose certe sono che Giovanni rientrò da Catania dopo le 10 di sera, che a casa nostra non c'era nessuno e che un'ora e mezza dopo, crivellato di proiettili, fu portato all'ospedale civile di Ragusa, dove giunse senza vita. Dei fatti di quella notte esiste una sola versione, quella dell'assassino. Vediamola. Camperia riceve una telefonata di Giovanni e va insieme a lui verso un bar alla periferia di Ragusa, che di solito è aperto fino a tardi. Vanno con la vecchia 500 di mio fratello. Trovano il bar chiuso e decidono di dirigersi verso il centro per trovare un altro locale. Intanto discutono della solita faccenda. Davanti all'ingresso del carcere, in una strada poco illuminata, mentre la macchina è incolonnata nel traffico, Camperia chiede a Giovanni di fermarsi perché accusa un malore. Si sente svenire. La 500 si ferma dietro un 850 che inaspettatamente ha superato e si è fermata davanti all'ingresso del carcere. A questo punto il figlio del giudice apre il fuoco contro Giovanni a due mani, con una rivoltella automatica e una pistola a tamburo che ha tirato fuori dal borsello. Esplode 6 colpi a bruciapelo. La 500, rimasta senza controllo, scivola sulla discesa e si arresta sul ciglio della strada col motore acceso. Il figlio del giudice scende dall'auto, attraversa la strada, ingerisce delle pasticche di tranquillante che ha portato con sé, poi bussa alla porta del carcere e si costituisce. Giovanni giace accasciato sul sedile della macchina, in un lago di sangue. Non è ancora morto quando alcuni automobilisti di passaggio accorrono per soccorrerlo. Non se la sentono di aspettare l'ambulanza. Pietosamente lo caricano sulla loro auto e lo portano di corsa al vicino pronto soccorso, dove giunge senza vita. Recentemente, nel libro Segreto di Mafia, Carlo Ruta ha avanzato l'ipotesi che Camperia abbia agito sotto controllo esterno di qualcuno. Il fascicolo delle indagini e alcune testimonianze mettono infatti in evidenza che da una 850 che precede la 500 ed è quasi stata tamponata, scende un misterioso individuo che, incrociando l'assassino, che ha ancora in mano una pistola carica, si accosta allo sportello di guida dietro il quale giace Giovanni agonizzante e lo spalanca come se volesse prestare soccorso. Invece, subito dopo sparisce senza lasciare tracce. Avete ascoltato la lettura di un brano dal libro di Antonio Spampinato «C'erano bei cani, ma molto seri», storia di mio fratello Giovanni, ucciso per aver scritto troppo. Ponte alle Grazie Editore, 294 pagine, 15,50 €. Letture di Radio 24. Cosa è cambiato a New York, un anno dopo il fallimento della Lehman Brothers, che ha innescato la più grave crisi economica dal secondo dopoguerra? Nell'immenso salone del ristorante Four Seasons, su Park Avenue, è l'ora del Power Lunch, il pranzo dei potenti. Sembra invece di stare al refettorio di un convento. Sarà per i pochi tavoli occupati, per l'enormità dello spazio che esalta i vuoti, ma l'atmosfera è penitenziale. C'è David Dinkins, l'ex sindaco nero di New York, 83 anni ben portati, che parla fitto con il suo commensale. E al lato opposto, con altri 4, Felix Rothin, di qualche mese più giovane, che è stato un grande banchiere della Lazard e anche un civil servant che negli anni 70 contribuì a salvare la città dalla bancarotta. Chiedo al direttore di sala se sia l'effetto della crisi. Lui mi offre una sintesi folgorante. Vuole sapere la differenza tra la Wall Street di oggi e quella di un anno fa? Che al ristorante non occorre più prenotare. Gli faccio osservare che le banche hanno cominciato a caracollare molto prima, con i subprime. Risposta tranciante. Per noi tutto è iniziato con il fallimento della Lehman Brothers. Ma stia tranquillo, tornerà come ai bei tempi. Già, se si getta un occhio alla borsa, e soprattutto a come l'economia di carta è tornata a macinare soldi, uno potrebbe anche credergli. Su questo camerieri e banchieri concordano. A un anno esatto dalla morte di Lehman Brothers, che a questo punto passerà alla storia per essere stata la sua vittima sacrificale, una rediviva Wall Street si avvia senza troppi patemi alla ripetizione dell'identico. Se ci riuscirà, se potrà archiviare la più brutta caduta dal dopoguerra come una delle tante bolle e ripartire, resta da vedere. Certo, si è sbarazzata dei più deboli, di chi non aveva una forte lobby a proteggerlo, di quelli che giocavano in proprio facendo della loro non appartenenza un motivo d'orgoglio, ma passata la tempesta è sempre lì, uguale a prima, con le sue banche voraci, i suoi bonus stellari, i prodotti che corrono pericolosamente lungo il confine della tossicità, e con i ricchi che, in qualche caso vistosamente meno ricchi, si affannano per recuperare i soldi perduti. Tutto ciò a dispetto della nuova era di frugalità predicata, per la verità con scarso seguito, da Tim Geithner, l'uomo che Barack Obama ha voluto alla guida dell'economia. Un po' poco, se l'intenzione era quella di convertire la gente a un nuovo modello di sviluppo. Wall Street is dead, long live Wall Street, sempiterno motore di un capitalismo ormai poco sostenibile. Ma resta un cruccio, qualcosa che proietta ancora un'ombra sulla ripartenza. Gli americani non consumano, o consumano troppo poco per rifare della loro economia la gioiosa macchina da guerra che fu. Il fenomeno è allarmante perché coinvolge anche i campioni del lusso per definizione anticiclici. Basta fare un giro sulla Quinta Strada o sulla Madison per vedere che anche loro vendono sotto costo. 70%, recitano i cartelli, fino al 70% di sconto per smaltire scorte che non si smaltiscono mai. Segno che i magazzini riforniscono gli scaffali con merce fresca. E poi c'è la disoccupazione che non accenna a diminuire. Viaggia costantemente sopra il 10%, con punte del 15%, come nel Michigan, lo stato che di questi tempi ha la sfortuna di ospitare l'industria dell'auto e molto del suo indotto. Così, tra l'ottimismo generale, si insinua la voce degli scettici. Se non c'è lavoro e la gente non va nei negozi, impossibile venirne fuori. Sarà perciò anche tecnicamente finita, ma la recessione percepita, che è poi quella vera, morde ancora. I blog sono pieni di racconti di chi ha perso il lavoro, le librerie, di manuali che insegnano come ritrovarlo. Ma la conclusione di Outliers, The Story of Success, il bestseller di questi mesi, è un durissimo colpo al mito dell'intraprendenza che la terra delle opportunità ha sempre premiato. Più di tutto conta la fortuna, il lato B della vita. È in aumento la relocation, il fenomeno per cui si cambia città e stato scegliendo i posti dove vivere costa meno. Per questo non occorre andare negli anfratti del Midwest. Se a New York uno guadagna $150,000 all'anno, a Los Angeles gliene bastano 100,000 ed è già un bel risparmio. Ma se invece sceglie Indianapolis, gli va ancora meglio, appena 54,000. Cade il mito dell'autonomia, del college come atto simbolico che spezza per sempre il cordone ombelicale che lega i ragazzi ai genitori. Adesso che molti perdono il lavoro, si ritorna a casa da loro e li si rivaluta come la più affidabile forma di welfare. Che la finanza sia tornata a tirare forte non c'è dubbio. Lo dicono le trimestrali delle banche e gli utili di alcune grandi corporation sopra le stime. Chiesto di un parere sui quasi 11 miliardi di dollari di bonus che la Goldman Sachs ha deciso di distribuire ai suoi dipendenti, i più alti nei 140 anni della sua storia, il presidente degli Stati Uniti si è affrettato a precisare che la banca aveva restituito tutti i soldi che il governo le aveva prestato. Dunque poteva comportarsi come meglio credeva. Affermazione che rivela la disarmante logica di chi scambia gli effetti con le cause, eludendo il problema. L'industria finanziaria americana è stata salvata dai soldi dei contribuenti, i quali in cambio non hanno avuto nulla a pretendere, nemmeno il più ovvio degli interventi. Una riforma del mercato che evitasse in futuro il ripetersi del cortocircuito che rischiava di farla fallire. Solo che la riforma langue, vuoi perché la gran parte dei consiglieri economici di Obama a Wall Street sono stati indiscussi protagonisti e beneficiati, vuoi perché è la stessa industria finanziaria che non tollera troppo vincoli ai suoi animal spirits. Tanto comunque alla fine c'è sempre qualcuno che paga le sue aberrazioni. Ed è questo che fa imbestialire gli americani, che li fa applaudire a ogni articolo di giornale che mette sotto accusa le banche. Tecnicamente discutibile, la mega inchiesta di Rolling Stone sulla Goldman Sachs, definita come la piovra che allunga i suoi tentacoli dappertutto, ha avuto un enorme consenso tra i lettori. A molti non è piaciuta per niente la deificazione di Ben Bernanke. Non si è accorto della tempesta che arrivava e poi ha lasciato andare o salvato banche con discutibile discrezionalità. Ora dovrà fare esattamente il contrario di quello che ha fatto prima, ha sarcasticamente commentato Edmund Andrews sul New York Times. Ma questa voglia di gettarsi tutto dietro le spalle, di dimostrare che le regole liberiste del Washington Consensus sono tutt'altro che morte, lascia serpeggiare molte ansie. Una inquieta più di altre. Un conto è teorizzarla nelle discussioni accademiche, fidandosi delle stime che vedono ancora lontano il sorpasso della Cina. Ma la fine dell'impero americano e lo spostarsi dell'asse verso nazioni continente che non saranno terra di conquista ma formidabili concorrenti sta diventando consapevolezza diffusa. Il capitalismo d'oltreoceano esce da questa turbolenza profondamente cambiato. Qualcuno, con folgorante sintesi, lo ha definito nella sua metamorfosi come quel meccanismo per cui lo Stato finanzia banche e aziende e queste, a loro volta, finanziano i clienti per indurli a comprare i loro prodotti. Termini sconosciuti come rottamazione sono stati il forzoso volano per smuovere la domanda in un settore cruciale come quello dell'auto. Il paese che uscirà da questa crisi si ritrova con un'economia assistita, un'enorme massa di liquidità immensa nel sistema, un debito pubblico federale a livelli record, città e stati, il caso più eclatante è quello della California, sull'orlo del fallimento, costretti a tagliare i programmi di assistenza e a vendere tutto il vendibile. Per questo l'America che torna a cantar vittoria, quella racchiusa tra le stradine del Financial District della Lower Manhattan, a molti fa l'effetto dell'orchestra che suona mentre la nave imbarca acqua. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Madron, New York anno zero, anzi no, dal numero 12 del mensile IL Intelligence in Lifestyle. Lunedì scorso, in occasione dei funerali solenni dei 6 soldati italiani caduti a Kabul, è stato chiesto di far osservare un minuto di silenzio agli studenti di tutte le scuole italiane. Ma molti presidi si sono rifiutati, chi per motivi politici, chi adducendo le scuse più assurde. I bambini sono troppo piccoli e non capiscono. La circolare è arrivata in ritardo. Senza un'adeguata riflessione sarebbe solo retorica. Le missioni di pace si fanno con i medici, non con i soldati. C'è sempre un motivo, tutt'altro che buono, per evitare un gesto semplice ma importante. Quasi tutte le scuole d'Italia lunedì mattina si sono fermate per un minuto di silenzio in memoria dei 6 soldati caduti a Kabul. Ma altri presidi si sono rifiutati di accogliere la disposizione del Ministero. Quando la settimana scorsa Maria Stella Gelmini ha denunciato, in un'intervista al Corriere, la persistenza di aree di militanza politica nella scuola, si sono levate contro di lei molte critiche. Ora appare chiaro che il ministro non aveva torto. Ebbene, ha fatto a chiedere scusa alle famiglie dei caduti, anche a nome di coloro che hanno negato quel minimo segno di dolore e rispetto. Resta l'amarezza per una scuola che, sia pure con molte eccezioni, riesce a trasformare anche un'occasione di unità nazionale in un punto di divisione. E soprattutto si ostina a leggere qualsiasi vicenda attraverso le lenti della politica, peggio ancora, dell'ideologia. Tra le varie giustificazioni colpisce quella della direttrice di una scuola romana. Ogni caduto sul lavoro, non soltanto i militari, dovrebbe essere commemorato. L'obiezione è sottile perché incrocia un'attitudine dell'opinione pubblica. Mai come questa volta l'Italia ha reagito al lutto come un paese normale, piuttosto che come un paese emotivo. Ma proprio questa normalità implica che il rimpianto e la gratitudine per i soldati, uccisi in una missione di pace che conducevano in nome e per conto di tutti noi, unisca anziché dividere. Mentre quasi l'intero paese si fermava, mentre in qualche aula si faceva come se nulla fosse accaduto, nella Basilica di San Paolo fuori le mura i familiari si congedavano dai loro cari senza strepiti, senza invettive contro lo Stato e i suoi rappresentanti, ma con un dolore silenzioso. Quel dolore è stato, anche per i bambini e i ragazzi rimasti senza loro colpa seduti nei banchi, la migliore delle lezioni, e anche i piccoli l'hanno capita benissimo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Aldo Cazzullo, Un gesto semplice e una cattiva lezione, dal Corriere della Sera del 21 settembre.